Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Le buche nell'asfalto sono una specie di metafora dell'Italia, ma sono soprattutto causa di incidenti stradali e fonte di molte spese per le amministrazioni locali che hanno il compito evidentemente di mantenere le strade in condizioni adeguate. Allora stasera parliamo di Pavement Management System, un sistema di manutenzione programmata delle infrastrutture stradali cittadine che consente di intervenire nelle fasi iniziali del degrado del manto stradale, riducendo così i costi e migliorando anche la sicurezza. Si è iniziato a utilizzarlo a Roma in via sperimentale dopo la proposta di uno stagista. Ogni tanto succedono anche queste cose. Per fortuna, studente di ingegneria all'Università di Roma 3, Tommaso Giachetti. Buonasera, benvenuto. Buonasera, benvenuti. Allora, tutto inizia con un veicolo speciale. Che cosa fa questo veicolo? Questo veicolo è un veicolo ad alto rendimento che consente, tramite un passaggio sul manto stradale, di acquisire le informazioni di degrado e di restituire quindi ogni 70 metri, attraverso l'elaborazione delle immagini di specifici software, di un indice di degrado. Quindi ci sono proprio delle telecamere montate su questo mezzo che riprendono, fanno una ripresa tridimensionale, no? Della superficie dell'asfalto. Nel dato 3D esattamente della pavimentazione. Quindi per esempio si vede se ci sia una crepa, se ci sono delle, insomma, delle rotture. Appunto, i classici ammodernamenti vengono quindi elaborati da questi software che appunto li catalogano, e attraverso questa catalogazione si arriva a definire il degrado su sezioni di 70 metri della pavimentazione. Ci sarà un indice che dice questi 70 metri sono messi così, quegli altri sono messi così. Ecco, una volta acquisito questo tipo di dato, che cosa viene fatto? C'è un secondo step. Nella fase di elaborazione, appunto, del PMS, che si conduce attraverso specifici software gestionali, che consente, tenendo in considerazione i vincoli di tipo finanziario, i vincoli di tipo di performance, delle caratteristiche degli interventi che vengono messi in campo dall'amministrazione, di elaborare sul medio e lungo periodo quella che è la strategia più efficiente secondo lo scenario, appunto, di costi che l'amministrazione decide di sostenere. Cioè, quindi una linea ottimale di azione, diciamo così, tenendo conto dei vincoli. Per esempio, se ho un budget di 20 milioni o se il vincolo è voglio fare il top, cose di questo genere. Un PMS può rispondere all'esigenza, per esempio, di cercare di ottimizzare una spesa che è fissata. Abbiamo 20 milioni, spendiamoli al meglio. Oppure può essere uno strumento in grado di fare delle previsioni, cioè se vogliamo portare la rete a un dato target di performance, quanto ci potrebbe costare in tot anni? Grazie Tommaso Giachetti. Buonasera, salve. Buonasera Paolo Masini. Salve, buonasera a voi. Assessore allo sviluppo delle periferie, infrastrutture e manutenzione urbana di Roma Capitale. Benvenuto a Smart City. Allora, voi avete sperimentato questo Pavement Management System. Che cosa avete fatto esattamente? Beh, un nuovo approccio, una piccola rivoluzione che ci fa passare di fatto dall'emergenza alla programmazione. Attraverso questo sistema noi siamo in grado, appunto, attraverso delle telecamere ottiche, di avere l'immagine 3D di tutta la nostra pavimentazione superficiale, in modo che possiamo intervenire appena si crea un piccolo problema sul manto stradale, non aspettare che si deteriori ulteriormente. Ecco, e voi avete fatto una sperimentazione, vero? Noi abbiamo sperimentato attraverso appunto questo macchinario danese su 60 chilometri dei 700 chilometri della grande viabilità del Comune di Roma. Che a sua volta è una frazione dei 5.500 chilometri complessivi di strade del Comune, sì? Sì. E per appunto vedere in che situazione è il nostro manto stradale, da lì partiremo. È un'innovazione importantissima che inseriremo nel nuovo appalto che partirà a gennaio. Ecco, quindi diventerà obbligatorio utilizzare macchinari di questo genere, sostanzialmente. Assolutamente sì, perché a lungo andare, noi pensiamo nell'arco di 3-4 anni, questo sistema di prevenzione dai pensieri lunghi ci permetterà di risparmiare almeno la metà sugli interventi, a patto che si risani a breve la situazione attuale romana. Che, insomma c'è un arretrato che va recuperato, dopodiché quando diventa normale intervenire in questo modo i costi di gestione si dimezzano e forse anche più. E forse anche, come dire, l'impatto sulla viabilità, no? Si fanno degli interventi più leggeri e per quello che costano meno. Un conto è siliconare, diciamo così, una crepa, e un conto è tappare un buco. Certo, l'invasività sarà minore perché gli interventi non saranno massicci come quando la buca è diventata un problema importante per una strada, pertanto per viabilità. Siliconare una piccola fessura crea meno problemi che fare altro. Quali sono i precedenti di utilizzo di questo sistema? Beh, insieme alle università siamo andati a scovare i sistemi proprio in giro per il mondo. È un sistema utilizzato ormai da anni in America, in molte città dell'Europa, del nord Europa e soprattutto in grandi aeroporti internazionali. Grazie, grazie Paolo Masini. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appunto.